Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Oh, lunedì, che palle, vabbè, si può dire? Sì, basta che non lo scrivi con la K. Cosa? Che palle. Ah, pensavo lunedì. No, che palle con la K, sì. Sai come fanno questi barbari della videoscrittura? Che barbari, Drago, sì. Lo fanno per far prima, cosa vabbè, barbari? Però anche questo è infantilismo, scusa. Adesso anche i cinquantenni usano la K, le abbreviazioni tipo TVB. Lo so, usando la lingua in quel modo anche il cervello si adegua, hai capito? Più primitiva è la lingua, più primitiva diventa il cervello di chi la usa, è chiaro questo. Sì, però lunedì che palle, ma anche tu che palle. Sì, sempre con la K, no? Ti ripeto che è per far prima la K. Far prima è la cosa più importante. Sì. Far prima, e certo, abbreviare e sintetizzare, che poi tra l'altro ti fa anche risparmiare caratteri. Vabbè, perché i caratteri, che problema ci sono? Costano. Certo che costano. L'SMS più di 160 caratteri costa il doppio. È vero, sì. Twitter invece sono 140 caratteri e stop, non puoi andare oltre. Il ogni tweet messaggio è quello lì. 140 caratteri. Quindi se sei capace di comunicare in sintesi, bene. E se no ti arrangi, cambi strumento, no? Io lo cambio volentieri lo strumento. Perché dammi sei vecchio, Drago, sei un vecchio. Anzi, sei antico. Però scusa, se andiamo avanti così, i prossimi temi della maturità bisogna scriverli in 140 caratteri. Ottimo. E così le leggi dello Stato. Ma si semplifica, è meglio, allora, no? Allora come la mettiamo coi libri? E li scrivi col T9. Carissimo, vi faccio gli ampliodoti per la splendida bara. Grazie, ma non è con le omine che mi convincerci a seguir punto interrogativo tradizionale nel tuo siano da pazzogfe. Paura, ma sei obbiguato con me per qualche cazzava che ho fatto? Sì, cassa, mi vuoi attuare nella Nerek, vero? La Nerek tu ce l'hai nel cervello. Ma va a bagare, testa di minciga. E ora, bambini, ricreazione! Oh, ricreazione! Un apostrofo rosa tra le parole Dubal. Ma come un apostrofo rosa? Due palle, due apostrofo. Vabbè, si togli la E. Le lezioni fanno due palle, Drago. Vabbè, almeno qua giochiamo, no, facciamo qualcosa. Facciamo un esperimento con i bambini piuttosto. No, cosa? Dai, che esperimento con i bambini? Mi preoccupi. Ma no, voglio solo fare un'intervista per capire se è vero quel che si dice. Cioè che i giovanissimi si trovano molto bene a comunicare con 140 caratteri tipo Twitter, come abbiamo detto prima. Si trovano benissimo, te lo dico io. Tu la fai facile. No, io voglio fare come San Tommaso, andare a vedere proprio di persona, chiedere ai bambini come fanno, che tipo di messaggi si mandano, eccetera, eccetera. Vabbè. Quindi qui abbiamo il bambino Bertoncelli. Ciao bambino Bertoncelli. No, Bertoncelli no, non ci siamo, Bertoncelli, critico rock. Basta. Vabbè. Ma perché? Ecco, non dico altro. Va bene, vabbè. Bambino Albertino. Cosa c'è oggi? Vabbè, innanzitutto buona settimana, Vabbè, dai. Cominciamo bene la settimana. Ma senti, a parte convenevoli, c'è qualcos'altro, c'è della ciccia? È sempre così. Ma lascia stare, vai, alla ciccia, no? Ma cosa devo fare? Volete che mi metta a pancia in su come i cani? Ma no, mica il caso, Io non ho tempo da perdere. Una volta salutati, andiamo al sodo, Ecco, vabbè. Io c'ho un casino di lavoro da fare, C'ho qua una montagna di messaggini da mandare ai miei amichetti. Ecco, appunto, Albertino, è proprio di quello che volevamo parlarti, no? Perché tu sei un nativo digitale, quindi potrai darci... No, cosa sarebbe sta novità? Adesso cosa c'è? Il nativo vegetale, t'ho sentito! Ma no. Non è vegetale, è digitale, Albertino. Significa che sei nato quando c'erano già i computer, internet e tutto quanto. Nativo digitale. Sei come noi che siamo vecchi tanto da essere nati quando c'erano ancora i Beatles. Però i Beatles, quelli mi piacciono una cifra, Sono un po' molli. Ma ci stanno dentro. Vabbè, ma come parli? Ci stanno dentro i Beatles. Sei un nativo digitale. No, veramente questo sembra lo slang di 20 anni fa. Come? Starci dentro. Allora, avete finito di rompere le palle? Mamma mia, oggi. Io devo mandare i tweet ai miei amici. I tweet. Se ci siete voi davanti, ma mi casino. Ma sì, incasinati, però è proprio dei tweet che vogliamo parlarti. Albertuccio, siamo curiosi di sapere come fai a scrivere frasi dotate di senso usando solo 140 caratteri più spazi. Cioè, compresi gli spazi. Che domanda è? Come domanda? Perché ne esistono di più di caratteri? Sì, ce ne sono di più. No, ce ne sono di meno di caratteri, volendo. Cioè, esiste in commercio un instant messaging, che è un software che accetta più di 140 caratteri. Ma io questo non lo so. Ma io so che esistono carta e penna, no? Puoi scrivere tutto quello che vuoi, altro che 140, anche 140.000. Però sei pedante, carta e penna, insisti su sta cosa. Perché la mia è una battaglia giusta, giustissima. Ma noiosa, anzi, lascia perdere. Insomma, dai, lui manda i tweet. Ma ho capito, infatti. Cosa gliene frega della carta e penna? Però, Kappa, il mondo si imbarbarisce, siamo d'accordo? Si usano sempre meno parole. L'italiano si sta modificando, lascia spazio a questa lingua orribile, piena di neologismi televisivi, una cosa veramente vergognosa. Kappa, scusa, che... il tuo amico ha grossi problemi. Mi sa di sì. Che lingua parla? Ma che ne so? Così, neogollismi. Ma no. Ma cosa vuol dire? No, neogollismi sono le teorie politiche ispirate a De Gaulle, che è un francese di tanti anni fa. Ma adesso cosa stai dicendo neogollismi? Neologismi. Parola derivante dal greco, che vuol dire nuove parole. Vedi che non sai nemmeno niente tu, capo. La colpa è di Twitter, del T9, tutte queste cose. No, il T9 no, dai. Come no? No, il T9 non lo so usare. Ma è facile il T9. Ah no, mi casino sempre. No, no. Perché lì, se scrivo sono impanicato, e viene fuori sono in Sansa Kun. Chi è che lo capisce? Cos'è che viene fuori? In Sansa Kun. Ma cosa in Sansa Kun? In Sangasun. Vabbè, ma in Sansa Kun. Come si capisce? Sembra un insulto. Vabbè, passa alla modalità tradizionale e lo scrivi. Magari, non so come si fa. Ma vabbè, alla faccia del nativo digitale, capo. Sti ragazzini non sanno far niente, sanno nemmeno scrivere col T9. Poi scusa, bambino Bertolucci, per forza che il T9. Allora! Bertolucci, poeta, regista. No, non mi piacciono le storpiature con nome di altri. Vabbè, allora, bambino Alberto. Il T9 non riconosce l'espressione impanicato perché non esiste l'espressione impanicato. Come non esistono parole come scialla, bella lì, apericena, trombamico. Vabbè, cosa vuol dire? Come cosa vuol dire? Cioè, allora, se mettiamo che tutte queste parole non esistono, allora non esiste più niente. Vabbè, è nichilismo. Drago, ma è colpa tua. Ma non puoi togliere la materia prima dalle mani dei giovani. Ma quale materia prima? Poi si drogano alla fine. Materia prima, cosa ho detto io? Scialla, apericena, trombamico, ti sembra materia prima? Ma certo, l'apericena. Cena con la tromba amica o col tromba amico, senza pericena e senza tromba amici. L'Italia dei sempre giovani si ferma. La pericena? Io penso che viviamo una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. E ora, bambini, e tutti a casa. Vabbè, oggi chi ti viene a prendere? Nessuno. Ma come? Vai da solo? Se riesco ad attraversare, sì. Vabbè, dai, allora vengo con te. Ok. Cosa facciamo? Bisogna aspettare che il flusso diminuisca, cosa vuoi fare? E quando diminuisce? Non lo so, stai calmo. Ah, quindi dobbiamo stare qui a tempo indeterminato sul ciglio della statale a rischiare l'arrotamento. Senti, o stiamo qui o torniamo all'asilo, scegli all'asilo tu. All'asilo no, per carità. Ma perché non proviamo ad attraversare? Buona fortuna, vai. E tu non vieni, dai. No, io aspetto che non ci siano macchine, ma dove vai? Ci sono sempre macchine. No, dai, sempre non è possibile, statisticamente non è possibile. Se invece fosse come dico io e le macchine non si fermano mai, guarda. Beh, pensala come vuoi, io sto qui a aspettare. Allora aspetto anch'io. Tanto prima o poi passeremo, dai. Sì, vabbè, ma prima o poi quando? Ti ho detto che non si può sapere. La statale è un sistema complesso, è difficilmente prevedibile. Sì, però non è possibile che non lasciano attraversare due che vogliono uscire da un asilo, scusa. Ma infatti passeremo, prima o poi passeremo. Ce lo dici tu. Secondo me domani siamo ancora qua. Ma ti dico di no, vedrai. Ti dico di sì. Ma no. Ma sì, ma non vedi? Ma no. Torniamo domani e se siete in Sangakum scrivete col T9 a chiedoasilo@radio24.it. Yeah.